mettere in attesa, capito? Attesa, ci vuole tempo, amalgama, devono cominciare a capirsi tra di loro, sai, non c'è uno di una nazionalità o quella all'altra, compreso l'allenatore, quindi è un problema. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sì, siamo al top, sì, qui, però... Fammelo risentire, Gianmarco Ferronato. Beh, sì, siamo al top, sì, qui, però... Questo è il mio amico Giuseppe Cruciani, perché oggi siamo veramente al top, siamo al top. Abbiamo una marea di gente in arrivo, abbiamo Lotito, abbiamo Mazzarri, abbiamo Bergomi, abbiamo anche chi ci vuole contattare, ovviamente 0024 0024, avremo le pagelle di Marino Bartoletti, avremo Mauro Icardi, in persona. Però ma forse nei prossimi giorni Savia Zanetti, e poi vi spiego perché. Siamo al top! Ciao ragazzi, ciao! Nei prossimi giorni potremmo avere via Zanetti, ma la cosa verrà resa impraticabile nei prossimi 5 minuti, perché c'è un Cruciani carico a pallettoni! Ehi ragazzi! Ragazzi, oggi siamo carichissimi. Che non mi viene a trovare. Siamo carichissimi sul caso, ovviamente, del momento. Ragazzi, si parla molto più di Cardi che del referendum, diciamo la verità. Alla gente del referendum istituzionale, sì, ma non frega assolutamente nulla. La gente si appassiona a questo tema. Icardi è un coglione oppure alla fine c'ha ragione lui? Il linguaggio sempre pacato, misurato. Ci arriviamo tra un attimo. Però io volevo, con il vostro permesso, e se voi, Pierluigi Pardo, Giuseppe Cruciani, me lo consente. Cioè, prego. Ah, c'è lei il conducatore. Mi consenta. Io voglio salutare Mario Giordano, perché il Torino mi sembra il classico esempio di matrimonio perfetto tra una squadra ricca di giovani, talento, e con un allenatore che sembra fatto apposta per quella squadra lì. Ieri 4-1 a Palermo. Leggetevi la classifica, dove vince chiunque. Mario Giordano, buongiorno direttore. La puntata è al top, quindi avete pensato di cominciare, diciamo, tranquilli, senza esagerare. Ciao Mario, ti abbraccio, come stai? Ciao, tutto bene. La partita di ieri non è il risultato, è bellissimo, ci sono le due perle di Ljajić, che sono due cose. Ma è la cosa che ci ha entusiasmato, che ci entusiasma, è il modo di giocare di questa squadra. Stai godendo come un riccio, direttore, sì, vero? Dire la verità. Maiali, sì, come vero, maiali. Sì, proprio come, visto che c'è Cruciani, mi sbilancio nel perché noi non si vedeva, qualcuno oggi diceva addirittura dai tempi dello scudetto, io voglio dire almeno dai tempi in cui Mondonico alzava la sedia ad Amsterdam, che non si vedeva una squadra che andava a giocare così, con questo piglio, con questa personalità. E aggiungerei, Mario, mancano pure dei punti, perché all'inizio qualche partita poteva... E poi gli infortuni, Per esempio, saremmo già testo, solo sul rigore di Belotti all'ultimo minuto, sì, a San Siro. Anche poi a Bergamo. Questo Ljajić è stato fuori, praticamente è rientrato ieri dal primo minuto, dopo che è stato fuori praticamente sempre, quindi... E poi quello che dicevate prima, la grande capacità di Mihajlovic, cosa che non abbiamo visto purtroppo per tanti anni, nonostante il buon lavoro che ha fatto Ventura per altri versi, ma di dare fiducia ai giovani. Sulla fascia sinistra abbiamo un giovane, segnatevi il nome perché se ne sentirà parlare tantissimo, che è Barreca, sta giocando 4 partite da titolare perché ha fatto male Molinà, che è straordinario. Possiamo dire che al signor Cairo sta andando bene un po' tutto. Se il signor Squinzi dice che Sassuolo, l'obiettivo è Sassuolo, lo scudetto, io mi aspetto che possa dire. Intanto Squinzi, al di là della componente, aspetta, prendevo leccare un attimo Cairo, ma perché lo penso, cioè che al di là della componente culo che ci sarà in questo momento, sicuramente in questo momento gli vengono fuori i propri bambini con i baffi, come si dice, però insomma anche in questo Torino c'è programmazione, perché si è beccato per anni del Cairo braccino e in qualche modo poteva anche sembrare così. Ha un bilancio pazzesco, ha una squadra zeppa di italiani. Vi racconto una cosa cosa che non so, senza fare nomi e cognomi, della determinazione di quanto sia importante il Torino per Cairo, al di là di RCS, della 7. Cioè, ricordiamo che Cairo è presidente del Torino, per chi non lo sapesse, perché bisogna essere popular, non bisogna dare nulla per scontato. Il signor Cairo è il proprietario della 7 e anche da pochi mesi del Corriere della Sera, sì, RCS, uno dei più grandi gruppi, che ricomprende anche la Gazzetta dello Sport, che infatti è diventata granata. Ma adesso no, il colore verrà cambiato il colore delle pagine da rosa a breve. Ah no, pensavo che facessi riferimento a un altro. No, però la questione è molto semplice. Il signor Cairo un giorno, per un articolo scritto non vi dico da chi su Tutto Sport, un po' critico nei confronti del Torino, adesso ci arrivo, poi dico il nome, 55 di mattina ha chiamato questo signore dicendo: ma perché, ovviamente come fa Cairo, molto gentile, molto carino, ma perché parli male del Torino alle 7:05, un po' come Mario Giordano, insomma, anzi forse un po' più tardi. Un po' come faceva l'avvocato dall'altra sponda di Torino, Mario Giordano ha questo grande pregio, uno dei tanti pregi che ha Mario Giordano, è che legge i giornali alle 6 di mattina. Lui alle 7 di mattina sa già tutto quello che è uscito sui giornali, tutto, dalla prima all'ultima riga. Io ormai li leggo grazie a un'applicazione che non so se lo fa, della quale sarà dotato certamente il direttore. Ecco, io li leggo a mezzanotte e 50 i giornali. Esatto. E la mattina? Sì, non è ancora aggiornato, no, mantieni quelli che arrivano, perché non tutti arrivano a mezzanotte e 40. Esatto, è vero. Quelli che arrivano già si leggono. Però vedi, cos'è che arriva a mezzanotte e 40? Corriere, Gazzetta, anche qui Cairo. Giornale. Direttore, per chiudere sull'argomento che... Mario, che direttore? Mario. Signor Mario. Avete detto ma è da una vita che fa direttore Mario. Avete vinto di pensare a Giordano, quanto affetto c'è per il signor Cruciani, diciamolo. Allora. Poi vogliamo bene. Direttore. Dimmi tutto. Direttore. Allora, vuoi fare la scommessa sullo scudetto? No, no, che scommessa sullo scudetto? È impossibile. Bruciamo i libri in piazza come si faceva in un certo posto, in una certa epoca. È andato sui Gardi, E certo. Oppure interessante quello che pensa Giordano. Magari ingabbiamo qualcuno di quelli che tirano le maglie. Oppure che, come notizia di oggi, che poi vi dico, che poi vi spiego. Ci sono alcune persone che si occupavano del catering di Milan e Inter e che sono state condannate per camorristi. Sono state condannate a, mi pare, 6 anni. Non trovo la vecchia pratica delle società di calcio. Non trovo la pratica, non trovo il foglio che mi hanno. Tutti i panini che mi sono mangiato senza. Vabbè, morale, Mario Giordano, bruciamo i libri in piazza? No, i libri non sono da bruciare, però mai, però una società di prestigio come l'Inter, secondo me, proprio per evitare queste cose, i libri giocatori li dovrebbe controllare, evitare anche alcune frasi oggettivamente sbagliate, perché uno può esprimere tutte le opinioni che vuole, ma dire vengono 100 quella è una cosa... No, quella è un'idiozia senza proporzioni. Ma una società seria come l'Inter deve avere un'organizzazione tale che gli permette di evitare i suoi giocatori di punta di cadere in questa, perché è un ragazzo che già su questo siamo. Sì, ma non è, attenzione, scherzato a lungo, una biografia scritta dai cari, vabbè, per la modestia adesso va il momento in cui vanno a tra un po' avremo i Pulcini che scriveranno la biografia, però una volta che lo fa, ci sta anche che uno come Icardi possa scrivere una stronzata, per dirla, no? Però ci deve essere una rete di protezione che gli impedisca di soprattutto nei suoi confronti. Io devo salutare il direttore che è impegnato. Il direttore Mario non vuole sentire il traffico. Facciamogli sentire il traffico, direttore. Dove deve andare? Dove deve andare, direttore? Ma detto, che sono appuntamenti aziendali molto, molto importanti. Te l'ho detto. Mica ti racconto stupidaggini. Grazie. È vero. Grazie. Allora, grazie a voi. Buon pomeriggio. Buona puntata al top. Al top. Siamo al top. E c'è Toro Lazio domenica. Esatto. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Popovie. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. vi presenta Tutti Convocati. I tifosi chiedono che qualcuno ci metta la faccia, può rilasciarci nel qualcosa in relazione a quello che è accaduto. No, grazie, per favore, siamo grazie, tranquilli. Scusate. Ma a 23 anni c'è bisogno di scrivere un'autobiografia, secondo lei? Sentite, sinceramente, è un grande caos in cui non entro certamente io. Grazie, arrivederci. Io posso dire che non sono mai stato contattato da nessuno di loro per dirmi cosa state scrivendo, tanto più che noi l'abbiamo fatto in presenza di, voglio dire, della stessa manager di Mauro Icardi, che ha sempre, insomma, ha detto ok, possiamo scrivere il libro, e noi l'abbiamo scritto. È possibile ricucire questo rapporto tra voi e Icardi? Ma credo che sia impossibile, perché una persona che ti minaccia di morte non razionalizza in questo momento un accesso nei nostri cuori, nella nostra mente, per poter dialogare con una persona così. Io sono pro Icardi tutta la vita, per cui io ieri facevo il tifo per Icardi ancora di più, perché ho visto un ragazzo in difficoltà in campo. Boh, secondo me non è tanto la responsabilità quanto io penso che se uno si fa a 23 anni fa l'autobiografia, a 50 scrive la Treccani probabilmente, perché il concetto è quello. Se tu fai la presentazione di un libro di un tuo tesserato e la gonfi, la partecipa, almeno vai a vedere cosa c'è scritto. Allora, abbiamo sentito un po' di opinioni tra popolari. Sì. E allora, posso dire una cosa? Poi, certo che poi fate. Allora, la cosa fondamentale è questa. Secondo me le ironie sul libro a 23 anni ci stanno, ovviamente. Però sì, è una prassi ormai abbastanza abituale. E soprattutto ognuno ha il diritto di fare quello che vuole, anche bravo, di scrivere una biografia del nulla, perché oggettivamente è una biografia del nulla. Bravo. Se non ci fosse stato questo episodio raccontato, al momento secondo libro più venduto dopo, ecco, Harry Potter, se non ci fosse, ecco, stato questo episodio raccontato, probabilmente nessuno avrebbe parlato come nessuno parla in generale, tranne rari casi, dei libri di allenatori, calciatori, eccetera eccetera. Ora, le ironie ci stanno, c'è chi si rivolta nella tomba che non ha mai scritto un'autobiografia ed è stato un grande campione, eccetera eccetera, però oggi va così e soprattutto c'è il diritto, poi è il lettore che decide, no, se andare a prendere un libro in libreria oppure no. E soprattutto, seconda cosa, Icardi ha diritto di essere matto, ha diritto di essere esibizionista, ha diritto di avere come manager una donna molto esibizionista, forse più esibizionista di lui, ha il diritto di fare vagamente più matta. No, ma ha il diritto di fare quello che vuole della sua vita e nessuno lo può mettere in dubbio questa cosa qui. Le questioni della maglia, l'attaccamento, come abbiamo sentito da qualche tifoso, sono tutte cose ridicole. Oggettivamente quella frase lì è sbagliata, ma quella frase lì è stata pronunciata, quella sui 100 argentini delinquenti che vanno ad ammazzare i delinquenti, in spogliatoio un anno fa, non mi ricordo quando era Sassuolo. Sì, sì, no, due anni fa, allora, che non ha prodotto nulla perché non li ha presi questi 100 argentini. L'unica cosa che rimane di questa vicenda è quello che ha detto Moratti, che pur non dicendo, non volendo dire niente, nulla, ha detto tutto. Allora, ha detto che è un caos, c'è il grande caos. Posso dire un paio di cose? Allora, la prima, aspetta che c'è lo zio Bergomi. Vabbè, zio Bergomi, come va? Ciao zio. Sì, ciao, bene. Ciao zio. Come stai? Però prima di Bergomi sono andato a controllare, come hai fatto anche tu ieri Carlo, sì, l'organigramma dell'Inter. Sì. Ora, l'organigramma dell'Inter, vai a vedere sul sito, sono impegnate e immagino pagate profumatamente svariate persone, credo un numero che va dai 50 ai 60, solo quelli che ci sono scritti là, poi ci sono i dipendenti, i dirigenti, secondo, terzo, quarto, quinto grado, io non so quante persone impiega. Possibile mai che una società, di fronte a un giocatore così, diciamo, imprevedibile e così, diciamo, delicato come Icardi, come già Icardi protagonista di altre cose, controllare... Ma non è una dichiarazione fatta ai microfoni, è un libro, c'è bisogno del tempo di scriverlo, non lo so perché sarà stato scritto in 4 giorni, però comunque è un libro che deve andare in stampa. Possibile che non ci sia stato uno che è andato lì a controllare riga per riga quello che dice Icardi? Questo è abbastanza incredibile. Tra l'altro, posso dire cioè, la multa non è ai Icardi, bisognerebbe fare l'automulta alla società. Sono d'accordissimo, società, ma poi soprattutto io adesso voglio sentire Beppe Bergomi, però a me ha fatto inori dire quanto ha detto Zanetti prima della partita contro il Cagliari, dicendo i tifosi sono il nostro patrimonio e vanno rispettati. Attenzione, leggetevi il commento, poi marcia indietro, il commento di Cristiano Gatti: il libro riscritto sminuisce la rivolta del tifo normale, c'è una chiara distinzione tra tifosi e ultra. E Cristiano Gatti chiude dicendo: tocca all'Inter cominciare ponendosi la fondamentale domanda: quando dirigenti e bandiere ripetono come un mantra che i tifosi vanno rispettati, quali tifosi intendono? Giuseppe Bergomi. Sì, non è facile, li ho sentiti anche ieri, no? Che è stato l'argomento principale, ed ero d'accordo con Pardo quando diceva che in quel momento bisognava fare 0-0, nel senso parlo soprattutto della società. Non era il caso di intervenire con quelle dichiarazioni, lasciar passare un attimino e poi capire come hanno fatto, secondo me, nella giornata di oggi, dove hanno gestito bene la cosa. Una volta, insomma, ho parlato con il ragazzo e giustamente gli hanno lasciato la fascia. Io penso sempre che bisogna tornare indietro nel tempo, nel senso, quando tu hai deciso di dare la fascia di capitano a lui e quando permette a un ragazzo come Icardi, che io so essere un ottimo giocatore, ottimo atleta, un grande professionista, ma la sua gestione fuori dal campo, secondo me, quando prevarica determinate cose, va gestita, ma andava gestita 3 anni fa. Ma certo, quando, ma è il diamante del, è il diamante tecnico dell'Inter, è il patrimonio dell'Inter, eh. Cioè, è il giocatore di maggior livello. Sì, però scusami Beppe, non ti pare una follia il fatto che con tutte le persone che l'Inter ha a disposizione, cinesi, indonesiani, adesso io faccio un po' di ironia su questo, però è la realtà, cioè persone che devono gestire la comunicazione, non ci sia stato uno che di fronte a un libro in uscita sia andato a vedere, ma scusa, cerchiamo di vedere un po' quello che scrive questo ragazzo. È assurdo, dai, è una roba assurda. Per cui vanno sanzionate quelle persone lì, non Icardi. Icardi è Icardi. Fa Icardi, cioè lo sappiamo, no? Ah, Icardi, cioè... fa Icardi, Icardi dice più che altro ho capito, Beppe, però ascolta, fa Icardi e mi va bene, però io dico, la gestione non da campo, perché lui è irrepressibile, mi ha detto tutti che è molto bravo, si allena bene, è un esempio, certo, ma quello che fa fuori nei social, secondo me andrebbe, insomma, gestita in una maniera diversa, così. Certo. Da fuori io la vedo così, ma forse perché è una cosa caratteriale. Però mia, scusami Beppe, ma poi andrebbe gestita in che modo? Ormai non è che si può impedire a un giocatore di scrivere un post o di scrivere una cosa su Twitter. Napoli lo fanno per contratto. Il problema è che qui siamo oltre, cioè qui siamo al fatto che a Torino lo fanno per consuetudine, che la società è senza un punto di riferimento, cioè non c'è nessuno che comanda, cioè c'è Moratti che dice che forse ritorna, che dice con grande caos. Ora io, Zanetti, per carità, non voglio attaccare un monumento eccetera, però un vicepresidente non può limitarsi a tagliare i nastri, cioè uno come Zanetti, argentino, conosce probabilmente Icardi, insomma, se non interviene prima in situazioni di questo tipo, cosa ci sta a fare? Adesso, per carità, Zanetti è una bravissima persona, un cuore d'oro, l'ho incontrato 1000 volte a Tiki Taka, è una persona sanissima, è una parte sana del calcio. Però operativamente, quando esce la biografia di un calciatore, bisogna andare a vedere rigo per rigo che cosa dice, soprattutto quando è Icardi. Questo è assolutamente vero. Poi io non voglio difendere Zanetti, perché poi dipende che ruolo tu dai, perché il ruolo di vicepresidente, sì, io mi ricordo che anche in passato l'avevano dato a Franco Baresi. Però vicepresidente vuol dire tutto e nulla, nel senso hai ragione. Operativamente non sei sul mercato, non costruisci tu la squadra, sei lì come rappresentante. Io penso che Javier stia studiando, perché la sua ambizione è quella poi di essere più operativo, essere più decisionale. In questo momento hanno preso lui dopo una riunione per far dire quella cosa lì. Sì, sì. Hai capito cosa voglio dire? Comunque mi sembra... Sarà solo il tempo a dire se Zanetti sarà in grado poi di ricoprire altri ruoli. Mi sembra che la situazione si sia risolta. Oggi c'è un comunicato della Curva Nord. Rimane la figuraccia, rimane il problema. No, però c'è un comunicato della Curva Nord, secondo me, clamorosamente lucido e quasi sospetto, nel senso che veramente forse potremmo prestarli a qualche ministero come esperti di comunicazione, perché è veramente molto lucido, cioè non fa quasi una piega, nel senso che si concentra su un elemento che è quello della falsità, secondo loro ovviamente, del resoconto che c'è nel libro, cioè l'idea che la maglia fosse stata strappata al bambino, e poi essenzialmente dice continueremo a tifare, non è il nostro capitano, la nostra scelta, però è uno contro uno, io posso credere, la sensazione è che alla fine che della curva, la quadra ci sia stata. Io continuo a pensare che prendere in considerazione oggi nel mondo della comunicazione i comunicati della Curva Nord, che non significa nulla, significa un gruppo di persone che si autonominano rappresentanti della tifoseria, è una follia, è gente che lo fa per mestiere, ma è una follia il fatto che si dia retta ai comunicati della sedicente Curva Nord, è una follia inaudita. Sono d'accordo. Allora voglio chiedere ancora una cosa a Beppe Bergome prima di salutarlo, a proposito di ruoli formali e nominali ed operativi. Mi ha colpito quanto tu hai scritto e hai detto l'altro giorno a proposito di Maldini. tu hai detto io ci sarei entrato, avrei visto come funzionavano le cose, avrei dato un'occhiata al progetto, ci avrei provato, pur non volendo essere la bandiera che viene messa fuori sul balcone. Ma c'è una grande diversità, perché secondo me Paolo ha fatto benissimo, purtroppo non è uscita bene la sua immagine, esatto, sbagliando, perché lui non riconosce nessuno, lì non c'è una figura di riferimento, l'Inter c'è un proprietario, sai chi comanda, e quindi per quello io dico entro perché so chi c'è. Dall'altra parte Paolo, secondo me, lo volevano strumentalizzare, non dargli un ruolo operativo ben preciso, certo, e Paolo merita tutto questo. E quindi, perché lui non va alla ricerca lui del Milan, è il Milan che è andato a cercare lui. Quindi Paolo ha fatto benissimo. Paolo va rispettato per questa sua però decisione. Hai ragione, è uscito grande, soprattutto nella prima intervista sulla Gazzetta, poi il post su Facebook era secondo me migliore. Mm. Da quell'intervista con la Gazzetta è uscito malissimo, cioè sembrava un uomo avido, sembrava, sì, un uomo, sì, che non era pronto a sottoporsi a una minima gavetta, che volesse comandare tutto lui. E io sono abbastanza convinto di questa cosa, più vado avanti, più approfondisco e più mi sembra che insomma l'errore sia stato evidente, ma solo di comunicazione. Grazie zio, grazie. Va Peppe bene, Bergamo. Grazie a voi, ciao. Grazie. Ciao, zio. Ciao. La borsa, poi dovrebbe arrivare Mazzarri, Sì. Ci autoportiamo. Poi c'è anche Lotito, poi c'è il magico questo potere del riordino, che è al 17° posto nella classifica dei libri, mentre Icardi è secondo dietro a Harry Potter. Tutti convocati. Tra poco nuove notizie. Pigia, il coso rosso. Grazie. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Namo, let's go! Tutti convocati. Ripeto, oggi siamo al top, anzi dillo. Siamo al top. Ma io in realtà non lo dico, lo dicono gli ascoltatori. Comunque siamo al top, ragazzi. Siamo al top. 800 24 00 24. Volevo dire, ieri sera appunto è intervenuto Attività, che è l'autore del libro, il coautore del libro, che ci ha spiegato che nessuna copia verrà gettata al macero. Semplicemente, visto che il libro sta andando molto bene anche grazie a tutto questo bailam che si è creato ed è secondo nella classifica di Amazon dietro a Harry Potter, la ristampa del libro, sì, ci sarà, verrà fatta con... Quindi da un lato ci sarà il collezionismo di chi cercherà le copie vecchie, sì, e dall'altra ci sarà una spinta sulle vendite. C'è il presidente Lotito! Ecco, attaccato. Adesso lo richiamiamo, perché dobbiamo parlare di una cosa molto bella che posso farà dire che della Patrizia, io sono, sì, contrario nelle varie quelle pagine, ma certo sono qualsiasi contrario, persona, ma qualsiasi persona normale qualsiasi è contrario, persona, cioè. Ma perché uno non può scrivere quello che vuole? Sì, ma sì, soprattutto cosa significa togliere quella roba lì? Ormai che, è stata scritta, guarda, l'effetto è nullo. La dinamica, giornale, ragazzi, la dinamica scritto, dell'episodio, dai, è diversa da come racconta Icardi su questo. Non ci sto grandi dubbi. C'è Lotito? Presidente? Pronto? Aspetta. Squilla. Ah, questo è proprio stile Zanzara. Stile Zanzara. Sì. Ma il silenzio... Ah, perché Lotito si dimentica delle cose dopo 2 secondi. Sì, abbiamo chiamato 4 minuti fa. È così, okay, ragazzi. Va così. Ah, intanto già... Adesso si era già rotto il cazzo. Leggiamo dei messaggi. Vabbè, ma non essere volgare sempre. No, perché ha rotto il cazzo, non dica una parola volgare. Per Genta, Cruciani ha ragione. Follia a dire che la curva d'orda rappresenta tipo, chiamala anche l'altro numero. Chi comanda l'Inter ieri ha fatto bene. Ci scrive Ulisse. Ragazzi, se guardate bene le immagini, la maglietta sottratta a un bambino è quella di Guarin. Si vede anche il bambino disperato. Certo, Icardi ha difeso un bambino. C'è l'unico elemento. Icardi è un grande, ci dice un altro ascoltatore. Da tifoso interista, sentire un sedicente Capultrà. parlare di valore e minacce è comico, ci scrive Giuseppe da Sesto San Giovanni. Interessante che le bandiere dell'Inter siano terzini, in effetti insomma, allora, al di là dell'episodio però controverso, perché non appare dalle immagini che ci sia questo bambino che sarebbe stato stritolato, come diciamo prima, da tutti quelli che stavano lì, e dunque forse Icardi quella roba lì se l'è un po' non dico inventata, ma ha messo insieme due cose diverse. C'è però un elemento. L'elemento è che due calciatori di cui parlavamo prima, uno ex Maldini e l'altro Icardi adesso, si mettono contro gli ultra, successe anche a Maldini. Caso strano, Maldini viene tenuto fuori dal Milan per tanti anni. E Icardi adesso, le prime dichiarazioni dei dirigenti dell'Inter erano a favore dei tifosi. Ma tu sai comunque quali sono e contro i giocatori. Tu sai quali sono le storie che si raccontano su Maldini fuori dal Milan per molti anni. È entrato De Luca, perché non è amico di. Di Galliani. D'accordo, però è stato accusato di aver orchestrato questo vergognoso, certo, addio di Maldini. Però ti ripeto, due calciatori. Maldini si mise in contrasto con gli ultra e caso strano è stato tenuto fuori dalla società. Icardi si mette contro gli ultra, uno dei pochi che platealmente si è messo contro gli ultra, e la società, la prima persona con cui se la piglia per questo episodio è Icardi, non i tifosi. Certo, non i tifosi. Certo, chiaro, certo. Ci dicono pure, non vi viene il dubbio che sia stata scritta apposta per creare rumore e far vendere molte copie? Senti, fammi sentire Claudio. Claudio, buongiorno. Buongiorno, sono io in linea? Sì, salutiamo, sì. Antonio, il cui messaggio non verrà mai più letto. Prego, no, Claudio. No, ma sto scherzando. Buongiorno. Io chiamavo perché mi sembra che stiamo abusando della parola professionisti. Cioè, cosa vuol dire professionisti? Anch'io sono un artigiano, sono un professionista, ma lo posso fare bene o lo posso fare male. Fare il mio lavoro comporta anche sapermi comportare con le persone, dosare quello che dico. Se io avessi un dipendente che tratta male i miei clienti, non sarebbe il massimo, secondo me, per la mia azienda. E secondo me Icardi si è comportato in un modo. È gente che guadagna milioni di euro, centinaia di migliaia di euro. Non possono permettersi di dire, non ci si può permettere di dire sono ragazzi. Ma cosa vuol dire sono ragazzi? Sono ragazzi, ha ragione. Guadagnano quello che guadagno io in un anno con un'azienda di 10 persone. Al di là di quello che guadagnano, io sono d'accordo invece solo in parte su questo. Vabbè, ognuno ha il diritto di scrivere una biografia anche a 23 anni, dai. Sì, Mazzarri l'ha scritta un'autobiografia con Alessandro Alciato. Buongiorno, piacere, mister. Come va? Buongiorno, bene, grazie. Bene, le manca l'Inter, il caos creativo dell'Inter delle ultime ore, questo senso, lo diciamo. No, ma sono un po' fuori da tutto, anche sono state fatte domande anche su altre squadre. Mi sto concentrando a parlare di Tapene, che non è facile, bisogna calcio un po' diverso, quindi sono un po' al di fuori da tutto. Sì, ho letto anche che non ha nemmeno il tempo di mangiare. È vero. Ma quello, guardate, non per fare l'esagerato, ma chiedete a tutte le squadre in cui ho allenato, soprattutto in Italia facevo allenamenti il pomeriggio, per essere lucido tendevo a non mangiare, poi sinceramente in quell'orario lì c'è tanto da fare per un allenatore, quindi di solito mi capita così, ma non solo in Inghilterra, lo facevo già in Italia. Però Mazzarri, adesso non la vogliamo mettere, so che lei non risponderà sulla questione Icardi puntualmente perché non l'ha vissuta dal di dentro, dunque non può sapere alcuni dettagli. Però secondo lei c'è stato un errore del giocatore nello scrivere quella biografia e soprattutto nel riportare quelle frasi, prendo 100 delinquenti argentini e vi ammazzo, oppure l'errore principale della società che non ha controllato quello che c'era scritto dentro quel libro? Lei ha fatto la premessa giusta, poi mi ha fatto la domanda. ma l'autobiografia di Mazzarri qualcuno l'aveva controllata? Ci proviamo sempre noi. La sua l'avevano controllata? No, ma noi, io, allora vabbè, è chiaro che a 50 e passa anni, quando fai i regolamenti, insomma, c'è un'altra testa, quando stai a 23-24 anni non è che ci si pensa da noi a sapere quello che si deve poter dire, insomma, non sappiamo il nostro ruolo, certo. Sappiamo che ruolo abbiamo e stiamo attenti, se si deve fare un libro si fa, ma questo al di là dei controlli o meno, e chiudiamola qua perché non dico altro. No, certo, però insomma, certo. Questa è una cosa che mi avete chiesto a me, mister, dobbiamo parlare di Watford, ha battuto Mourinho, ma adesso c'è il traffico, lei che strada prende? La M per andare a Watford, nel nord-ovest di Londra, che strada prende? La M? La M1 e la M25. Allora adesso le diamo gli aggiornamenti del traffico anche sulla M1 e la M25. Traffico. Sì, sicuro. Bravo. Tutti convocati. Qui si fa fatica, ragazzi. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Tutti convocati. Abbiamo al telefono Walter Mazzari, da davvero un piacere. Pierluigi Pardo, com'è battere Mourinho, al di là del bel campionato che state facendo? Io l'avrei posto in modo diverso: quanto ha goduto nel battere Mourinho? Mi dica la verità. Vedete, purtroppo quando si dà quando noi allenatori si allena non ci rendiamo conto. Con Mourinho, da quando arrivai all'Inter, un ottimo rapporto. Siamo anche, si è parlato un'ora prima e dopo la partita, anche dopo la sconfitta. Io sono contento perché ho vinto una partita importante con un club importante. Se fossi stato allenato da un altro allenatore sarebbe stata la stessa cosa, per me, giuro. Posso non crederci? Posso, no, ma secondo me invece è vero, perché il rapporto è stato recuperato. Provate una volta a credermi, perché è vero, giuro che è così. A me interessa la soddisfazione. Dico di aver verità, battuto lo United, cioè. Che ha battuto dopo 30 anni, come dicono i tifosi, ci hanno fatto tutta una. Ma anche per il club per cui è alleno, no? Sono contento per i tifosi che 30 anni non vincevano col Manchester United. È chiaro che poi una squadra prestigiosa riesce a batterla. Noi anche per l'autostima, per la crescita della mia squadra è importante, tutto anche, non lo nascondo. Ma e no, anche per una classifica che dice 13 punti, decimo posto, il che non mi sembra affatto male. Io le chiedo ancora due cose rapidamente. Si parla in questo momento molto di De Boer, dell'allenatore straniero, delle difficoltà dell'allenatore straniero. La settimana scorsa è stata in discussione anche Conte. Quanto ci vuole per entrare nella testa dei giocatori? Prima cosa. E seconda cosa, mi spiega questa frase: qui si va in campo, è un calcio più istintivo, si guarda meno alla tattica, i ragazzi vanno a volte in campo con una sorta di spirito dilettantistico, perché a volte vanno fuori dagli schemi, mettono agonismo, voglia di attaccare. Mi spiega queste due cose? L'ha detto lei mentre... Allora, io penso che, constatandolo, intanto non era il vero problema la lingua, come poteva essere per me, per Conte, per De Boni in Italia, perché poi troviamo il modo di comunicare, il calcio, se si vuole, si rende semplice, poi abbiamo gli interpreti, non è quello il problema. È un allenatore che ha una certa mentalità, per esempio noi italiani siamo molto per la tattica, così, loro sono un po'... bisogna convincerli che quello è utile per loro, quello è difficile, casomai è culturale, come vedi il calcio, come sei impostato con la tua scuola, no? Sì. Tu vieni da una scuola di un certo tipo e trovi un altro... culture, pian pianino devi cercare, se ci credi, di portarli verso di te, e questo un pochino è difficile a volte. Io penso di essere stato agevolato perché il nostro era un crescita, i ragazzi che sono partiti con me quest'estate avevano fatto solo un campionato di Premier League, e poi quindi erano più disponibili verso di me a capirmi, perché poi magari la storia anche di un allenatore che più o meno ha fatto sempre dei risultati importanti, poi i ragazzi stessi la seguono, no? ti danno più credito. No? Sì. E quindi io questo sono stato abbastanza fortunato, agevolato in questo, perché il campo, grazie a Dio, si è visto che si è fatto anche delle ottime partite con club sulla carta più forti di noi. Posso dire che io sono sempre stato, non frega niente a nessuno, però non buttiamoci giù, dai. Che sono sempre stato innamorato del Watford dai tempi di Elton John. Esatto, Elton John. Te lo ricordi? Vuole cantarci finale, Your Song? Finale di FA Cup, te la ricordi? Del Watford vinta, no? Sì. Credo sì. Con Liverpool, se non sbaglio. Penso che tu ti confondi con Wimbledon. Wimbledon 21-0, Crazy Gang con gol. Qual è un piazzamento soddisfacente quest'anno per lei, mister, per il Watford? Sarebbe soddisfatto se il presidente, noi infatti ho fatto un triennale, mi voleva anche prima, ci abbiamo un ottimo rapporto, e lui vuole far crescere questa squadra. È un anno solo che è Premier League, l'anno scorso hanno finito al girone di ritorno male, per quest'anno bisogna consolidarci, cioè salvarsi. Qui in Premier League c'è tanta competizione. Salvarsi sarebbe un risultato già. La salvezza è chiaro, è l'obiettivo minimo, diciamo. Certo. È chiaro che io, loro lo sanno, insomma, credo anche quando arrivai a Napoli, il Napoli era messo in un'altra situazione ora, e poi non si è fatto una cavalcata importante. La speranza è quella, bisogna far crescere questo club il più breve tempo possibile. Io sinceramente non mi accontento se è posto della salvezza e basta. Ma non abbiamo altri obiettivi diciamo, impellenti. Tangibili. Ecco, Mazzarri può scegliere fra cantare Candle in the Wind di Elton John oppure rispondere alla seguente domanda: che succede al Napoli? Scelga lei. No, ma il Napoli io l'ho visto giocare, le partite ho visto giocare bene. Loro, non lo so, ora sinceramente l'ultima non l'ho vista. Non l'ho vista e non ho vista nemmeno le due sconfitte, nemmeno quella di Bergamo. Io il Napoli ho visto giocare sempre bene. Non lo so, basta, non posso dire altro. Amsic può fare il regista, pare che domani ci sia questa idea che Giorginio è un po' spompato. Amsic regista è un'idea, lei lo conosce, insomma. Amsic, questo lo posso dire, è un giocatore che conosco bene, quindi lui può fare tutti i ruoli. Quando mi si chiedeva a me di farlo giocare metodista, e detto Amsic lo può fare benissimo, però trovare una mezzala che fa come fece con me 12 gol all'anno, se lo metti metodista lo perdi davanti, cioè certo. È una scelta. Certo. È una scelta che deve fare solo l'allenatore che l'allena. Di sicuro Mario che sa fare quasi tutto, perché è talmente bravo che... Però ha detto perde qualcosa in avanti mettendo il metodista. Anzi, che è uno da 12 gol alla stagione. Qui c'è la domanda cattiva, Mazzarri. Ecco, però questa è Cruciani. No, però la domanda cattiva è questa. Ha ragione Moratti quando dice che l'Inter è un grande caos? Lo dice Moratti, non è che l'abbiamo detto. Ma non ha detto che l'Inter è un grande caos. Ha detto un grande caos. No, ha detto questo. Prego. Guardate, ormai il metterismo non mi fa dire niente. Bravo. Non voglio entrare in questo argomento. Ma questo è Cruciani, ha presente la zanzara. La zanzara. No, però Mazzarri, non è tanto questione di zanzara o non zanzara. La questione è che capisco che lei non voglia rispondere, però l'ha detto Moratti. Moratti oggi, che ha ancora un piede nell'Inter, forse anche due, ha detto è un grande caos. Beh, non mi fate dire niente, è un grande caos. Ma mi sembra semplicemente la verità. E volevo la certificazione anche da Mazzarri. Se l'ha detto, sarà bene. Comunque su BBC 5 Radio c'è un programma la sera che si chiama Mosquito, che è condotto dal signor Cruciani e lo può ascoltare. Mazzarri, le facciamo un grande in bocca al lupo, perché grazie. Insomma, grande Watford, forza. No, posso dire una cosa che penso, che ho detto mille volte, adesso gliela dico davanti. Io credo che veramente l'esperienza all'Inter in alcune persone abbia gettato immotivatamente, ingiustamente, un'immagine negativa di un allenatore invece di altissima percentuale, di altissima prestazione, che Mazzarri ha sempre fatto bene, con l'eccezione dell'Inter, dove comunque chi è arrivato dopo di lui non ha fatto meglio di lui, e questa è fredda cronaca, certo. Avendo più budget, certo. Insomma, questo mi sembra obiettivo. Non le dico questo per invitarla a Tiki-Taka e farle cantare tutto il repertorio di Elton John, lo dico perché lo penso veramente, l'ho detto anche tante altre volte. Grazie, adesso mister. Abbiamo il GR, grazie, il GR. Grazie. Tutti convocati. Io non gliela faccio più, ragazzi. Mi fate fumare una sigaretta. Dai, mezza sigaretta. Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. Il segnale orario vi è offerto da Tecnologie e logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Rieccoci. Tutti convocati. Ragazzi, stanno aspettando di telefonare al presidente Lotito. Che ma succede? Aspetta la telefonata. Aspetta. Io stavo aspettando e stavo zitto. Tu continua a chiamare Giuseppe De Luca. Cruciani. C'è Gianluigi La Monza. Gianluigi, eccolo qua. 800 24 00 24. Eccoci qua. Sì, non sono Lotito comunque. No, vabbè, sono un ascoltatore accanito. Tutti i giorni vi seguo. No, volevo solo dire una cosa veloce sull'Inter, sul comportamento della società, perché mi sembra che abbiate un po' bypassato questo passaggio che c'è stato, secondo me, io dico da juventino, però sono appassionato di calcio, che c'è stato proprio domenica dopo la partita, dopo quello che è successo a San Siro, che Ausilio, la prima dichiarazione che ha rilasciato, lui ha proprio detto, le parole testuali non me le ricordo, ma il significato era: io non posso mica andare a leggere il libro di Icardi. Ma infatti non con una dichiarazione del genere, cioè già dice cosa pensa la società. Sì, Gianluigi, però abbia pazienza. Non deve essere lui che legge il libro di Icardi. Può non essere compito suo. Potrebbe anche essere lui, insomma. Beh, perché no? Cioè, diciamo, perché lo deve fare? Fa un altro mestiere. L'ufficio, allora, secondo me, in un mondo normale, l'ufficio stampa ti chiama Ausilio, chiama, dice: ragazzi, c'è questa roba qua, che vogliamo fare? Chi la gestisce? Chi la gestisce? E poi quindi, a quel punto Ausilio, come persona informata sui fatti, non è che Ausilio deve andare a leggersi le bozze. Sì, non so se ha detto questo, se ce lo dice l'ascoltatore, non me la ricordo questa dichiarazione. Sì, sì, lo dice, sì, sì, ha detto questo. Non posso mica andare a leggere il libro di Cardi, è un errore, cioè è un errore proprio di dichiarazione, una dichiarazione sbagliata, perché uno o non la dici, o sì. Ma se la dici, proprio esprimi palesemente l'inadeguatezza, non di Ausilio, l'inadeguatezza dello staff di chi è deputato, dovrebbe essere deputato a fare queste cose. Ma vi dico, non è che scrivo il libro Ancelotti, perché Ancelotti scrive un libro, siamo appena sicuri, scritto un libro, sì, siamo sicuri che non c'è dentro qualcosa per, certo, cui una società, che sia il Bayern Monaco, che sia il Real Madrid, debba preoccuparsi, no? Cioè, in teoria. E comunque, secondo me, controllano lo stesso. Ma nel caso di Icardi è clamoroso, cioè un giocatore che si sa bene qual è, che tipo di giocatore è, che ha questo rapporto con la comunicazione particolare, che ha la moglie che ha, eccetera, eccetera, non è la prima volta che succedono casini intorno ai Icardi, no, devi controllarlo 100 ma volte. Ma nell'interesse soprattutto del ragazzo, l'altro giorno Sconcerti, e secondo me il tema è aperto, diceva che addirittura ci potrebbe essere una squalifica per queste dichiarazioni, cioè potrebbe essere quantomeno deferito per queste dichiarazioni. No, a me sembra un po' forzato. Anche a me sembra forzato. Per le cose che dice, assolutamente andrebbe deferito. Guarda, per il contesto dove le dice, che è fuori dalla. Sì, d'accordo. Diciamo, è stata una lite da strada. Questa sì, che è una lite da strada avvenuta sotto una curva di uno stadio italiano. Mario, buongiorno. Buongiorno, Mario da Catania. Come va? Mamoriano? Bene. Mamoriano? Monfiano? Com'è? Mamoriano? Monfiano, semmai. Monfiano, ci mancherebbe, mi scusi, non volevo offendere. Monfiano, no, diciamo, sono i pariolini, i sambabilini, Catania. Sì, diciamo l'upper class. Quante cose class. Sa. Quante cose sa. Allora, io volevo dire questo, volevo intervenire dicendo che per me il vincitore di questa storia è sicuramente Icardi, perché alla fine il suo libro non è stato, cioè anche se in futuro non ci saranno più quelle pagine, ormai quello che è stato scritto è stato scritto. Poi la società non ha preso nessun provvedimento, perché capitano era e capitano rimane, sembrava che dalle dichiarazioni dovesse succedere chissà che cosa, alla fine non è successo proprio nulla. Icardi ha avuto quello che secondo me chiedeva, cioè fare pubblicità al suo libro e tutto qua. Beh, allora diciamo che se l'obiettivo di Icardi è passare molti anni in pace e serenità all'Inter, insomma, questa cosa non è che proprio l'aiuti tantissimo. L'obiettivo non raggiunto. Ecco, insomma, questa cosa non l'aiuta. Siccome recentemente ha detto anche questa è la mia squadra, resterò per sempre, le cose che si dicono sempre in questi casi e poi non valgono nulla, e oggettivamente hai ragione tu. Cioè, diciamo, il rapporto tra l'Inter e Icardi non è un rapporto... L'Inter intendo come in generale, sia società, diciamo, tifoseria, eccetera, credo che sia un rapporto che con questa vicenda si sia chiuso, che si chiuda a gennaio, che si chiuda a giugno, che si chiuda... Posso divulgare pubblicamente la tua idea, amico, che mi hai detto a microfoni spenti? Cioè che secondo te è una manovra, non si sa se... di Icardi per andare via o dell'Inter per cedere? Allora, questo concetto. No, io ho detto una cosa molto semplice. Siccome mi sembra impossibile che nessuno della società abbia controllato, se prendiamo in considerazione l'idea che qualcuno abbia controllato, allora ci posso vedere, ma sarebbero troppo intelligenti, una manovra dell'Inter per dire vabbè, questo qua è incompatibile, lo possiamo cedere senza troppi problemi, diciamo, ambientali. Il più forte giocatore dell'Inter. Certamente Icardi oggi ha anche la possibilità di andare a dire alla società: guardate, io sì, voglio rimanere all'Inter, però dopo quello che è successo cedetemi all'estero, per esempio. Oggi è più facile che dopo quello che è successo che Icardi venga ceduto. Sicuramente. Su questo non c'è dubbio. Dopo un'estate in cui è stato richiesto rinchiostrato il contratto. Quello che è successo prima non ha importanza. Questa roba qui è un punto molto importante, un passaggio nevralgico, un turning point, come direbbe anche. Turning point, yeah. Che secondo me non è ricucibile. Cioè, abbiamo non è ricucibile. Icardi contro 40 ladroni. Ma non è solo questo, la società che si mette all'inizio contro Icardi. Io sono dalla parte di Icardi tutta la vita, te l'ho detto. Io sono dalla parte di Icardi tutta la vita. Icardi, salvo quel passaggio, ma lasciamo stare, non si bruciano i liberi. Vuol dire che le conseguenze di questa roba sono queste qua: che oggi è più facile cedere Icardi, è più facile per l'Inter cedere Icardi ed è più facile per i giocatori chiedere di essere ceduto. Sì, comunque, io voglio, prima di sentire Lorenzo, Andrea, Ettore e tutti quelli che ci sono, volevo confermarti la notizia di prima, perché secondo me è interessante, no, questa dell'Andrangheta nel catering di San Siro, condanne fino a 20 anni. Sono state confermate in corte d'appello a Milano le condanne per 6 imputati che avevano scelto il rito ordinario. Tutto parte dell'indagine che ha portato all'arresto di circa 40 persone accusate di far parte di una cosca legata a un clan della 'Ndrangheta. libri di Stefano Tegano e di fiancheggiarla al centro di tutto la gestione del catering a San Siro per le partite casalinghe di Milan e Inter. Le accuse erano di associazione a delinquere, di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, corruzione ed estorsione. Ma che vuoi dire con questo? No, voglio dire che comunque i rapporti tra oltranzisti e società sono perversi ed esistono. Non erano ultra, non però, in questo caso è la gestione del catering di San Siro che è stata fatta da un'azienda che dopo è stata accusata di 'ndrangheta. Quanti malavitosi ben noti conosciamo nelle curve italiane. Che vuol dire? Però non è che adesso se ci sono degli appartenenti alla 'ndrangheta che vengono condannati perché gestiva il catering di San Siro, questo non vuol dire che siano degli ultra, no, perché sennò qua diventa Non sto dicendo che siano ultra, però sappiamo tutti, anche se... Ma che sappiamo? Lo sappiamo? Non conosco la vicenda. Però sappiamo tutti che ci siano dei rapporti perversi, erano dei capi ultra e c'è evidenza, è un conto. Ma se non c'è evidenza, perché dobbiamo dire che erano ultra? Scusate. Non sto dicendo che erano ultra, sto dicendo che ci sono comunque dei rapporti perversi tra le società, tra club e... Ho capito, se c'è un magistrato che lo dimostra, va benissimo. Perfetto. Non voglio fare il difensore degli ultra, magari sarà anche così, però non mi sembra che se beccano delle persone che appartengono alla 'ndrangheta, poi per forza dobbiamo dire che sono ultra soltanto perché lavorano nel catering di una società. Non lo so, però forse mi sbaglio io. Lorenzo dalla provincia di Lucca. Sì, ciao. Una domanda per Pardo. Volevo sapere se questo Torino, come l'abbiamo visto giocare nelle ultime 5-6 partite, può ragionevolmente aspettarsi l'Europa League. Ma, sì, la risposta è aperta a tutti ovviamente. Io penso di sì, non è facile, nel senso che c'è un gran mischione. Il Torino sicuramente appartiene alla borghesia del calcio italiano, cioè è quel gruppo di squadre che mi sembra ce la possano fare. Poi però i posti non sono più tantissimi, perché sono 6 in pratica, e quindi non lo so, bisogna fare un po' di conti. Secondo me è in quel gruppo lì, è fra il quinto e l'ottavo posto il Torino, sicuramente. Vabbè, quindi ha la possibilità. L'Europa League l'ha fatta 2 anni fa. L'ha fatta nell'anno in cui il Parma aveva avuto problemi. Però voglio dire che ci sia una crescita complessiva dal punto di vista del budget, dal punto di vista del progetto, dal punto di vista dell'italianità da parte del Torino, questo è evidente. C'è anche il professor Bartoletti, come va? È arrivato Marino. Lusingato, Trenitalia permettendo, è un delitto interrompervi. Volete che vi dica una cosa latina al posto di Lotito? Sì. Ousque tandem abutere pazienza nostra, fino a quando si continuerà ad abusare della pazienza degli amici che vogliono veramente bene al calcio. A cosa ti riferisci, caro Marino? A cosa ti riferisci? Volevo fare sta battuta. Cosa ti riferisci? Alla biografia del signor Icardi? Chiaramente avete parlato di Icardi fino adesso, mi inserisco anch'io, so che devo dargli un voto, gli do 4, che è il voto più alto che do in questa vicenda. Dai 4 a Icardi e dai 4 anche all'Inter. No, forse molto meno. All'Inter. Ah, molto meno. Il voto più alto che do a questa vicenda. Sì. A chi lo dà il voto? A Icardi 4? 4 Icardi a scendere a tutti gli altri, fino allo zero assoluto della società. Sono d'accordo con te, perché all'inizio di questa trasmissione ho detto che il primo responsabile Icardi fa Icardi e uno può dare 4, 5, 6. La curva fa la curva, scusate. Sì, la curva, ma io non la voglio nemmeno citare, perché la curva non dovrebbe essere accettata come interlocutore. Io sono d'accordo con Cruciani. Tu continui totalmente a prendere in considerazione, giustamente. Ragazzi, ma il caso è nato perché c'è la curva. I comunicati della curva nord dell'Inter. Ma il caso è quello. L'Inter che rappresenta non si sa chi. Cioè, sono 4 signori che si mettono insieme su internet e dicono: noi rappresentiamo quel territorio che in realtà è un territorio della società e anche territorio nazionale. Non sto difendendo dicendo che è giusto, sto dicendo che però il caso è nato perché c'è stata una dialettica. La dialettica non è purtroppo tra Icardi lo stesso e Icardi, per questo si merita, per questo, come dice Marino, si merita 4. Ha come interlocutori, perché dopo nella sua cosa di pentimento dice: io gli amici della curva nord, i ragazzi della curva, di che stiamo parlando? Cioè non sono interlocutori. Ma lo scrive anche nel libro, fra l'altro. Il vero paradosso è che quella paginetta finiva dicendo che la curva che ringrazio è la curva nord, adesso siamo amici, è tutto a posto, il rapporto è ottimo e sono protagonisti e utili per i successi dell'Inter. Ma la società che non va a leggere, ragazzi, io insisto su questa cosa qui, non vanno a leggere riga per riga quello che scrive Icardi. Ma su questo è d'accordo anche Marino Bartoletti, che tra l'altro Gli amici miei, quando dopo che il conte Mascetti e Tognazzi ha fatto la supercazzola al vigile, il vigile dice al Necchi, ancora interpretato a Duilio del Prete: vabbè, facciamo finta di passare tutti per bischeri. Però se tu dai 4 ai Cardi, tu pensi che in realtà qualcuno abbia controllato quelle robe lì? Ma no, naturalmente no, ma però l'hai detto tu perché ti ho sentito, ne abbiamo parlato anche ieri. Se uno guarda l'organico dell'Inter si prende paura per i nomi che ci sono, per come sono descritti, per la loro esoticità e per il fatto che nessuno abbia fatto qualcosa. Icardi ha fatto l'Icardi. Poi vallo a spiegare ai cinesi, no? Sai, i cinesi che si incazzano, come direbbe Paolo Conte. E i cinesi che si incazzano e le palle ancora gli girano. E anche gli indonesiani, però, in realtà, ci sono pure gli indonesiani. No, poi... I treni italiani. Andrea D'Asti, Andrea. Buongiorno a tutti. Come ti chiamo? Punti a Cruciani. Come? Ho capito, scusate. No, vai. Punti a Cruciani, perché quelli che fanno i rappresentanti del tifo con patenti che si sono autoassegnate non meritano neanche gli insulti. La curva nord, sud, est, ovest non sono rappresentanti di niente. Domanda da tifoso: secondo voi sono io che ci leggo la paura dell'ancien regime nei titoli di giornale tipo Brocchi a Mandorla, oppure l'idea che entri qualcuno nel calcio non assoggettato ai regimi italiani di comunicazione e quant'altro spaventa un po' chi comanda il calcio italiano adesso? Magari ma sono io. Chi, ma chi comanda? Ma che legame c'è con che legame c'è con questa vicenda Icardi, però scusami. No, sapete, legame. Allora, Brocchi a Mandorla, che lo diciamo per chi non lo sapesse, è un titolo di Tutto Sport abbastanza forte, abbastanza provocatorio di ieri, per me, insomma, è una Tu dici, per far capire a nuovi proprietari stranieri chi siamo noi e cosa possiamo fare. Mi sembra un po' cervellotico, sinceramente, anche perché questi nuovi proprietari stranieri hanno portato un sacco di soldi ai vecchi proprietari italiani. Tohir si è fatto legittimamente una bella plusvalenza, ribadisco, legittimamente, perché ci ha messo i soldi, ha fatto il rischio e poi ha venduto al prezzo superiore a quello col quale aveva comprato. Lo stesso Moratti, insomma, non è che l'ha regalata la società, no? Le quote che aveva, quindi, tutto legittimamente, per cui francamente, insomma, mi sembra un po'. Però io il punto fermo è il grande caos di Moratti, questa piccola frase di Moratti mi sembra la fotografia della situazione. Moratti, perché senza dire nulla, no, ragazzi, non mi fate dire niente, così ha detto, non mi fate dire niente, no, ma non voglio entrare, certo è un grande caos. Moratti, non che ai tempi di Moratti fossero particolarmente, prima dell'arrivo di Mancini e poi di Mourinho, fossero particolarmente brillanti. Ma assolutamente, no, però che Moratti possa avere voglia, ragazzi, di tornare, una voglia essenzialmente sentimentale, ma che nelle ultime settimane abbiamo risentito. C'è un'intervista di Moratti al nostro Marco Barzaghi di 20 giorni fa, in cui, insomma, c'era un'apertura abbastanza precisa. Quindi questo è uno scenario che ci può stare. Da qui a pensare che tutto questo casino sia nato per quello, mi sembra francamente. È tornato Mario Bartoletti. Un ragazzo semplice. Grazie. Eravamo rimasti lì prima di una galleria, ragazzi. Cioè, io dico meglio paradossalmente di questi Inter indonesiano / cinese con tutti i casini eccetera, io che non ho mai apprezzato per vari motivi la presidenza Moratti, meglio la, se vogliamo, l'ingenuità, a tratti anche il dilettantismo dell'epoca Moratti, e se vogliamo quel senso di vittimismo che c'era quando l'Inter non vinceva eccetera eccetera, meglio questo di quello che c'è adesso. Poi ha cominciato a vincere quando è arrivato uno che ha messo a posto tutto. Giuseppe, no? Hai ragione, ma finché c'è la presenza di un Papa emerito che parla, mentre il Papa vero emerito se ne sta tranquillo che sta il Gandolfo, a Moratti gli andiamo a fare le interviste. Questo è abbastanza vero, nel senso che secondo me in assoluta buona fede, cioè, concludi tu perché non abbiamo sentito il concetto è che in assoluta buona fede la figura di Moratti però continua a essere una figura ingombrante, continua a essere positivo. una voce pesante nell'immaginario dei tifosi, conta qualcosa, e quindi in qualche circostanza, nello specifico Moratti secondo me è stato invece molto elegante, perché proprio non voleva parlare di questa vicenda. Poi gli è uscita la parola caos, gli è uscita proprio dal cuore, ma come dargli torto, fra l'altro, sul fatto che fosse un caos. Marino, quindi... sei ancora lì? Sì, ci sono, vi ascolto devotamente. Ci sei, volevo dirti, 4 Icardi è il voto più alto che dai in questa vicenda. A scendere fino allo zero della società. Posso fare nomi e cognomi? A scendere fino allo zero di Xavier Zanetti, che come ha detto Giuseppe Cruciani è una bandiera internazionale della calcio. Sportività, della correttezza, tutto quello che vogliamo. Tutto quello che vuoi, che esce prima della partita a dire queste cose e a dire i tifosi sono il nostro primo patrimonio. Oggi avrai letto quanto scrive Cristiano Gatti come un amico sul Corriere della Sera. Allora, chi sono i tifosi? Sono i 40 ladroni delle curve o sono gli altri? No, infatti io, guarda, di curve riconosco soltanto quelle degli autodromi, sinceramente. Non do 0 a Zanetti, gli do 0 più di stima, 0 la curva, se esiste. No, so, ragazzi, però pesano, cioè è inutile, non è che pesano perché li vogliamo far pesare, li vogliamo far pesare, ragazzi, da 48 ore, cioè siamo noi, ce lo siamo inventato noi giornalisti questa roba? No, ma infatti, scusate, il caso è nato in di Firenze. Vabbè, lo so, però voglio dirti, io non discuto il fatto che possano esistere modelli come per esempio il modello inglese, diversi, bellissimi, di altrettanto calore, forse anche più tranquilli, non discuto, dico che però in Italia c'è questo, per cui il caso non è che se lo inventano i giornalisti, il caso nasce dal fatto che Icardi scrive le cose, la curva gli fa gli striscioni, si crea un clima surreale, poi Icardi domanda, sbaglia erano, il rigore, non la erano, società interviene, cioè... Io ho un'altra domanda, scusate, ma non erano gli striscioni una volta, non si era deciso che non bisognava portarli dentro lo stadio? Cioè, ancora una volta, c'è una specie di extraterritorialità. Ma questo senz'altro. Che viene ribadita domenica dopo domenica. Cioè, è cambiato pochissimo. Cioè, qualche volta gli striscioni sono simpatici, carini. È cambiato fortunatamente negli ultimi anni la quantità di incidenti, che è molto diminuita, dentro lo stadio, ma anche nelle immediate vicinanze. Ottenuta anche con dei metodi repressivi, perché c'è tanta gente che allo stadio non ci può più andare, tantissime partite che vivono sulla assoluta mancanza della possibilità di andarci, no? Perché qualche volta il trucco è questo, no? Si accettano anche con un sorriso, eccetera, gli striscioni. Io ho visto uno sabato a Torino, era a Torino a vedere la partita della Juventus, quello per Buffon, no? Che era carino, sì, però se tu accetti quello, sono gli stessi che due domeniche dopo, se succede qualcosa, ti fanno uno striscione terrificante contro qualcuno, sì. Cioè è la stessa matrice. Beh, capito? Non è diverso, però è la stessa matrice. Il concetto, per chiudere con Marino Bartoletti, il concetto che mi fa andare ai pazzi è dire la gente non va più allo stadio perché c'è violenza negli stadi. Sai benissimo, Marino, avendo attraversato una buona parte della storia del calcio recente, come negli anni 70, 80 e fino a metà degli anni 90 andare allo stadio c'era da mettersi l'elmetto. E c'era la polizia con l'elmetto all'interno degli stadi, per la verità. C'era la polizia con l'elmetto. In questo momento alcuni problemi, come dire, all'interno degli stadi sono stati risolti, non purtroppo il problema legato eternamente a quelli che si ritengono i portavoce della tifoseria, chiamiamolo così. D'altra parte, ragazzi, solo in Italia la passione per una squadra si definisce con una brutta malattia, il tifo. Grazie Marino, sverdate, un abbraccio, sverdate. Buon viaggio. Ci scusa, c'è Belinazzo, grazie. Usano altri termini per fortuna. Esatto, ci sono c'è Belinazzo pronto, ma ci sono Marco, Ettore da Como. Io vorrei capire a che distanza sono uno dall'altro. Marco, Ettore, ci siete? Buongiorno, sono Marco. Dove siete? Ma... rispetto a Ettore, dove sei? Centro città. Tu, Ettore? Io sono a Cantù, di Cantù sono. A Cantù. Non Canturino, niente. No, Canturino niente, non conta. Sono questa è l'Italia, Cruciani. Due, scusate, voglio dire, questa cosa è straordinaria. Cioè, due ascoltatori di Como. Facciamo Centro per farli incontrare, già litigano su Canturino. Perché c'è Como, evidente, i comaschi considerano i Canturini dei minus abens. Sì o no? È l'Italia in pari nel referendum. Dai, no, ma io ho bisogno dell'ultimo minuto e mezzo per far spiegare a Marco Belinazzo. No, io ho bisogno che cosa... Mi avete rotto le scatole. Ciao, ragazzi. Ma manca un minuto. Ciao. No, Marco, me ne vado. Ciao. Marco Ettore. Ciao. Marco Belinazzo, spiegaci cosa succede giovedì qui al Sole 24 Ore. Forum Sport e Business, e chi ci sarà? Beh, il primo forum dedicato alla sport industry, alle nuove frontiere, di quello che deve essere la gestione aziendale dello sport, affinché lo sport sia più bello e privato di certe incrostazioni. Il Sole, insomma, ha promosso questo incontro, durerà tutto il giorno, ci saranno varie tavole rotonde, ci sarà anche il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ci saranno tanti protagonisti di quella che è appunto l'industria dello sport a 360 gradi. Non so se ho fatto uno spot adeguato, in ogni caso voglio dirvi che Icardi ha rinunciato a pubblicare autobiografie in futuro, ma sta per dare alla stampa l'autobiografia di Wanda Nara, che ho letto le prime bozze ed esplosiva. Ma meraviglioso, pensa con che notizia si saluta Belinazzo. No, e noi cercheremo di connetterci con questo forum Sport e Business. E poi domani alle 2 cominciamo con Marco Ettore, perché li abbiamo trattati Marco poveri. Ettore, domani Marco Ettore 14:05, segnali De Luca. E nel frattempo prendetevi un caffè insieme, non litigate. Cercheremo di connetterci con questo Sport e Business, perché se riuscissimo a tirare su per le orecchie Savia Zanetti o magari Elisa Di Francesco, magari Campagna ci tira la nazionale d'argento, gli chiederemo dell'autobiografia di Icardi, di Wanda Nara, di quella di Wanda Nara. Grazie per lui. Ciao ragazzi. Alla prossima. Ciao. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Alvise Falzoni in redazione. Ciao. Have a nice day.